Chiuso sull'Arno il giro dei velocisti con Mark Cavendish che fulmina per la terza volta un Petacchi più svelto di lingua che di gambe, eccoci qua alla domanda delle domande. Chi vince il giro? Per quel che si è visto nelle tappe salienti, il russo Menchov, maglia rosa dalle Cinque Terre, è l'uomo da battere, forte in salita, scalto e resistente a tutto per vincere, anche i suoi silenzi. L'unico neo è la squadra, ma visto quello che succede nella Liquigas di Van Basso, meglio soli che male accompagnati. Poi c'è Danilo Di Luca, che pur non avendo più la maglia rosa, però ha ancora diverse carte da giocare. Il percorso, con tre arrivi in salita che gli si addicono, una lucidità invidiabile e anche il calore della sua terra, l'Abruzzo, che alla fine gli darà una spinta invidiabile. Infine l'americano Leigh Palmer, un regolarista talmente regolare che ci si dimentica della sua presenza. Però è sempre lì e può contare sull'appoggio di Armstrong e dell'Astana. Un russo, un italiano, un americano. Come in una barzelletta, già da oggi, nell'impennata di San Luca, vedremo chi verrà spinto giù da questo pazzo giro del centenario partito dalle Dolomiti e lanciato verso il cupolone. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore.